America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Detroit. Mario Platero, sono nella capitale dell'auto perché è qui che si chiude il viaggio del presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, un viaggio cominciato nella capitale dell'alta tecnologia, San Francisco, nella Silicon Valley, un viaggio che si chiude sempre, attenzione, con un aggancio al futuro, nella città capitale di quella che molti considerano la vecchia economia, ma che posso garantirvi vecchia non è. Ma andiamo per ordine, perché vorrei partire dal discorso del Presidente del Consiglio ieri al Palazzo di Vetro alle Nazioni Unite. Sentiamolo. Ho detto ieri al Presidente Obama che la coalizione internazionale potrà contare sul sostegno italiano per eliminare la minaccia posta dall'ISIS. E continuo a insistere sul fatto che l'impegno del nostro Paese in tutte le regioni, in tutte le aree della regione sarà determinato e mi auguro determinante. Ecco, avete sentito il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha chiarito la posizione dell'Italia soprattutto sulla questione centrale del momento, cioè la lotta al terrorismo. E già il giorno prima, nell'intervento al Council on Foreign Relations, proprio Renzi aveva chiarito qual è la missione centrale dell'Italia in questo contesto di totale disordine nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Sentiamolo. We must absolutely invest in a new foreign political strategy for Europe. But for me, for Italy, the priority is in this moment Libya. Ecco, Renzi ha risposto a un vecchio amico di America 24, l'abbiamo intervistato più volte, l'ex ambasciatore americano a Roma, Dick Gardner, che gli chiedeva: ma quali sono le priorità della politica estera italiana? E Renzi ha risposto senza esitazione: la Libia. Ma veniamo a Detroit, qui è mattina, il Presidente del Consiglio sta arrivando, c'è un giro organizzato soltanto per lui e per un suo consigliere, perché andrà a visitare, tra virgolette, degli impianti segreti dove ci sono i nuovi modelli che la Chrysler sta costruendo, farà poi un giro nella Galleria del Vento, parteciperà a un incontro con noi giornalisti in chiusura di questo viaggio, incontrerà quattro ragazzi della Scuola Superiore di Detroit che hanno vinto un concorso italiano istituito da Palazzo Strozzi per il Rinascimento e li saluterà. Questi ragazzi, vincendo il concorso, sono andati a Firenze a studiare l'umanesimo e il Rinascimento. Dunque, dal punto di vista dell'education, un punto molto forte, ripetuto, ribadito più volte dal Presidente del Consiglio in questo viaggio, ha trovato anche questo suo momento simbolico, oltre che nella Silicon Valley, anche qui a Detroit. Posso darvi un feedback? Il suo intervento al Council on Foreign Relations, devo dire, è stato molto buono, molto aggressivo. Ho parlato con Brent Scowcroft, che è l'ex capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale di Bush Senior, un guru della politica estera, mi ha detto: beh, devo dire, è stato contagioso. Spero davvero che possa fare quello che promette di fare, perché ne va del destino, del futuro dell'Italia. So che avrà difficoltà. Ma su questo ho fatto anche due chiacchiere con Sergio Marchionne, l'ospite di Renzi oggi qui a Detroit. Sentiamo Marchionne. Una valutazione sull'intervento di Renzi, per favore. Eccezionale. Promette bene? Ma non è questione di soltanto le promesse che fa, è come il suo approccio, che è completamente diverso. Non è attaccato alla storia che ci ha portato a questi risultati qua, no? Parla di un futuro. Di un futuro diverso e parla del futuro per la prima volta. No? Si dice che occorre cambiare la cultura ed è quello che vuol fare Renzi, ma in Italia sembra difficile. Come si cambia la cultura? È difficile senza dubbio, ma i lavori facili non ne conosco io. Quindi lui ha un'impresa, ha dei compiti enormi da fare. Credo che il paese sia pronto per accettare la sfida, perché abbiamo visto che questi anni, questo è il mio undicesimo anno in fila, quindi abbiamo vissuto parecchie fasi che non sono state brillanti in termini di economia, di creazione di posto di lavoro, di benessere per gli italiani. Quindi sappiamo che quella strada là non ci porta molto lontano e sappiamo benissimo che questo tipo di approccio di cui sta parlando Renzi in effetti è l'unica soluzione che abbiamo. Bisogna aprirci al resto del mondo, dimenticarci discorsi, cioè non fare più discorsi dell'orto nostro molto limitati al territorio, a guardare al mondo intero come un'opportunità. È l'unica persona che l'ha fatto in una maniera onesta, lo possono accusare di essere inesperto, giovane, quello che vuole, ma la verità è che c'è un coraggio enorme, quindi in questo bisogna appoggiarlo e dare tutto lo spazio possibile per farlo e entrare anche in senso economico ad appoggiare il suo progetto. Quindi la FIA Chrysler sta cercando di fare quello che può fare per il paese. Se continua ad andare avanti così faremo ancora di più, perché ovviamente il paese merita. Il fatto che abbia intrapreso la riforma del lavoro come uno dei suoi obiettivi è importantissimo, per più come segnale che come sostanza, perché in effetti si parla tantissimo di questo sistema. Lui ha parlato non so quante di leggi, di regole che ci stanno, noi ci andiamo a sbattere continuamente, quindi ci viviamo e non ci rendiamo conto della complessità del sistema che stiamo gestendo, e questo bisogna alleggerirlo per il bene di tutti gli imprenditori, gente che crea lavoro e che dà la possibilità a investitori stranieri di venire a investire nel paese. Questo rimane uno degli obiettivi importanti, l'ha detto anche la signora che stava intervistando il presidente, che è il cosiddetto foreign direct investment, che è una delle cose che è stata estremamente generosa quando l'ha descritto come a un terzo del livello tedesco. Io credo sia numericamente sia molto molto più basso, quindi se quel numero non cresce non può crescere un'impresa, non possono crescere i posti di lavoro, non si può andare avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che riesce i tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Matteo Renzi ha chiuso questo suo viaggio americano, ha promesso un decollo della nuova Italia, di chiudere con la vecchia Italia, l'Italia che conosciamo noi, che conosciamo adesso, e di recuperare un'Italia antica, l'Italia addirittura del Rinascimento, l'Italia delle aperture, l'Italia delle nuove frontiere economiche. Insomma, Renzi sembra pronto al decollo, e dunque nello spirito del decollo del pianeta Italia, per un volo che sarà sicuramente turbolento, vi propongo di John Denver, Leaving on a Jet Plane. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Da Detroit è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!